Questo progetto ci dice sinteticamente quattro cose. Da un lato che è stato fatto un bando a chi lavora e domiciliato a Bologna, e ci sono state più di 200 domande. Quindi quello che è stata l'intuizione, abbiamo fatto un'offerta che ha creato una domanda reale. Dall'altro, la prima risposta è quella che diciamo da tanto tempo, che il sindaco dice, che l'assessore dice, che Bologna è una scelta. Quella che avevamo fatto anche con il logo generativo è Bologna, cioè chiunque sceglie di Bologna come propria destinazione temporanea, eccetera, lo è. E quindi le persone, gli artisti che sono qua, che ci circondano, di nati a Bologna credo siano un paio, gli altri sono nati in tutta Italia, c'è chi poi è nato, chi viene da Ulan Bator, chi viene dalla Ruanda, chi viene da Middletown negli Stati Uniti, dal Belgio, e quindi quello che si vede è, per fare un gruppo di artisti internazionali lo si può fare anche senza avere un bando che obbliga ad allargarsi a tutto il mondo, ma perché una parte di mondo, se la creatività è qua. L'altra cosa che da dire è che la creatività è una scelta per gli artisti che sono qua. Questi 12 artisti più il 13esimo di cui parlerà Lorenzo sono artisti i quali hanno scelto di fare gli artisti, e quindi una scelta di creatività. La terza cosa è che hanno scelto questo progetto, e quindi, come voi potete vedere, loro hanno questi spazi all'interno, ma sono spazi che vengono tenuti distanti ovviamente per via del Covid, ma sono spazi che parlano tra loro, e quindi hanno scelto non soltanto di essere dei creativi, ma di volere costruire una comunità. Le comunità non si costruiscono dall'alto, non lo decide Mambo, non lo decide Lorenzo, non lo decide l'assessore, neanche il sindaco. Noi offriamo la possibilità di poter trasformare questo luogo in una comunità, poi loro decidono che cosa significa essere comunità, e lo vedremo durante questo periodo, durante questi mesi, con la possibilità da parte dei cittadini di verificare la progressione di questo lavoro.